slick chick. See, a neat chick. The C's part of makes me tick. Mama, hey, hey, hey. Clickety click, a slick chick. Hey, hey. The high heels on for the baby blues. Man, oh man, what a sight. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, it was a night. Everybody stopped on a dime to look. Even my heart, my heart got a shook. She's my clickety click a stick chick. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, I got a stick chick. She's a neat chick. Well, she what makes me tick. Mama. Clickety click a slick chick. Yeah, don't you know she's a slick. Mama, a slick a chick. Ah yeah, a slick chick. Mama, clickety click a slick chick. E ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata di Slick Chick. Oggi è, chissà che giorno è oggi, il 25 gennaio del 2017, seconda puntata di quest'anno di Slick Chick, perché la scorsa puntata i più accorti e attenti di voi avranno notato che non siamo andati in onda. Slick Chick ha saltato, ha zompato, perché causa neve e maltempo e Siberia. Ma oggi il tempo è un po' più mite, fa anche quasi caldo, addirittura nella regia del Wombat stasera siamo quasi in magliettina e quindi ci possiamo permettere di nuovo di tediarvi con la musica e le biografie, i fatti strani e i gossip legati ad essa. Oggi in particolare vi parlo di numeri. Numeri un po' a caso, non tanto legati alla matematica, alla fisica, ma numeri in se stessi. Un sacco di gruppi e di cantanti hanno tratto ispirazione dai numeri, in realtà lo vedremo, sia proprio numeri proprio dentro il titolo stesso, sia numeri come numeri di telefono, indirizzi, eccetera. Non parleremo del tempo, numeri che indicano il tempo, perché quello sarà tema di un'altra puntata e quindi non è che mi potevo bruciare tutto così subito. Quindi iniziamo subito. Prima di iniziare, in realtà vi leggo i soliti social Wombat a cui ormai dovreste essere abituatissimi, ma che comunque ve li ridico lo stesso. Il sito wombat.noblogs.org, tenetelo d'occhio perché nella categoria trasmissioni si stanno aggiungendo un bel po' di nuove trasmissioni e se non ci fate caso ve le perdete, sarebbe proprio un peccato. Nella pagina podcast trovate tutte le registrazioni se vi siete persi le dirette, certo che se vi perdete le dirette non siete dei veri fan. E anche nella pagina ci sono altri contenuti interessanti del sito, li noterete, tra cui il palinsesto, dove potete essere aggiornati sugli orari e novità anche sugli orari delle repliche, perché stiamo accelerando, cioè stiamo cercando di riempire il più possibile il palinsesto della Wombat Radio, e quindi noterete che oltre alla musica del nostro bubinone stiamo iniziando a pubblicare anche i podcast delle puntate, quindi le repliche. Ecco, piano piano sul palinsesto vedrete fiorire un po' di orari, con non soltanto l'orario della diretta, della singola trasmissione, ma anche quello delle varie repliche. Quindi iniziate a guardare più spesso il nostro sito, ve lo consiglio. Poi, se proprio siete super social e modaioli, avrete un profilo Twitter e quindi potete seguirci su twitter.com/radiowombatfi. Se proprio, proprio siete dei nemici del popolo, allora avete la pagina Facebook e quindi potete seguirci su facebook.com/radio-wombat-firenze. Oppure, cosa altra abbastanza importante, scriveteci alla casella di posta postawombat@insiberia.net, dove vi ricordo anche dovete mandarci le vostre proposte di logo. Ma basta, perché sennò prendo troppo spazio e già sono partita pure in ritardo, quindi non è che posso proprio dilungarmi. Quindi vado subito col prossimo pezzo, il primo pezzo in realtà di questa scaletta, che per iniziare bene è dei Toots and the Maytals. Toots and the Maytals, il famosissimo 54-46, in realtà il titolo sarebbe That's My Number, oltretutto continua con That's My Number. Perché? Perché c'è un motivo per tutto ciò, perché 54-56... No, 54-46, scusate, era il numero della cella in cui Toots Hibbert, uno dei Toots and the Maytals, non a caso si chiamavano Toots, venne incarcerato per possesso d'erba. Questo pezzo, oltre ad essere strafamoso, lo riconoscerete subito dopo le prime note, l'avrete per i più attenti, non vi sarà sfuggito. È anche dentro la colonna sonora di This is England, un film di Shane Meadows che se non l'avete visto dovete assolutamente vedere. I'm gonna dedicate the rest of my time tonight for each and every one of you. And I'm gonna start with a little version for you. It goes like this. Everybody say, yeah. I say, yeah. I say, yeah. Get your hands on your head, no. You don't get no hurt this time. When I say one time, I want everybody to say, hey! Give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Give it to me four times. Vabbè, sì, in effetti è una versione un po' così, diciamo, sì, va bene, non è la versione canonica, però come dicevamo prima fuori onda, sì, sicuramente si è trattato di un importantissimo e famosissimo live nel 68 in Giamaica, di cui ora per caso non mi ricordo assolutamente niente, ma sicuramente avrà dato luogo a riot e rivolte, insomma, voi tutti lo saprete. No, non è vero, cioè non mi ricordavo neanche che era un live, questo, la versione che vi ho dato, vabbè, comunque il pezzo era ampiamente riconoscibile, almeno avrete sentito una versione un po' diversa dal solito. Ma proseguiamo in maniera lesta con la scaletta che è densa di contenuti. Dopo i Toots and the Maytals cambiamo completamente genere e arriviamo a Sarah Martin. Sarah Martin non è famosissima, anzi direi che mi posso fregiare di mandare in onda sul Wombat Radio un pezzo che difficilmente ascolterete in molte altre radio. Sarah Martin inizia la sua carriera intorno al 1915 come cantante di vaudeville nell'Illinois. La sua vita in realtà è meno disastrata e avventurosa di quella della maggior parte delle sue colleghe blueswoman. Lei infatti sì, è una blueswoman piuttosto in realtà all'epoca famosa. E tutto sommato si può dire che si godette i ruggenti anni 20, così come vengono definiti, fino al momento della Grande Depressione, quando chiaramente il momento delle vacche grasse finì e lei se ne dovette tornare al paesello ritirandosi dalle scene e continuando però a cantare, cantò essenzialmente gospel. Questo è un pezzo del 1923, scritto da Mike Jackson e Jack Lurie, altri bluesmen importantissimi del periodo, e il pezzo si intitola Numbers in My Brain. Some people beat the game of marriage. Some people beat the game of love. I'm like a horse into a carriage. Time to beat this game I'm thinking of. For I have numbers, numbers, numbers on the brain. I dream them, I scream them. They're driving me insane. I have no place to sleep, I've put my bed in pawn. I have no way to eat, for my cook stove is gone. Fooling with the numbers, numbers, please don't play that game. They'll make you cry and you'll deny your name. 7-Eleven is the number I played. My roll marched off like a big parade. I just have numbers on the brain. For I have numbers, numbers, numbers on the brain. I dream them, I scream them. They're driving me insane. I have no place to sleep, Lord. I put my bed in pawn. I have no way to eat, cause my cook stove is gone. Fooling with the numbers. numbers. Please don't play that game. They'll make you cry and you'll deny your name. Got nothing in the icebox, nothing in the trunk. I don't use a needle and I sure ain't drunk. I've just got numbers on the brain. So I have numbers on the brain. Lord, I dream them, I scream them. They're driving me insane. I've got no place to sleep. My bed I've put in pawn. I've got no way to eat. Cause my cook stove is gone. Fooling with the numbers. Numbers. Please don't play that game. They'll make you cry and you'll deny your name. I beat those numbers the other day. But the man with the money ran away. I just have numbers on the brain. Sarah Martin, quelle che avete sentito adesso erano le Marvelettes, alcuni di voi le avranno riconosciute, con Beachwood 45789, che è il numero di telefono, almeno spero immaginario, che viene dato dalla signorina della canzone al signorino che sta ascoltando, sperando che la chiami. L'album è Playboy del 1962. Ed è un brano scritto da Marvin Gaye, William Mickey Stevenson e George Gordy, ed è uscito ovviamente per la Motown. Ora, un altro pezzo, e qui entriamo nei numeri veri, numeri proprio numeri, con le gambine, le braccine, come spesso vengono disegnati e immaginati i numeri quando si devono spiegare ai bambini. Perché il pezzo che vi faccio sentire adesso è They Might Be Giants. In particolare loro hanno scritto diverse cose che riguardano i numeri. L'album, questo qui da cui è tratto il pezzo che vi faccio sentire oggi, si chiama Here Come the 1-2-3s, quindi già avete capito che appunto parliamo dei numeri. È un album del 2008, i They Might Be Giants vengono comunemente definiti musica per bambini, anche se in realtà è veramente limitativo, direi, dire che fanno musica per bambini, però obiettivamente un po' anche sì. Per ciascun pezzo dei ben 13 album che hanno fatto, esiste anche un video, il che vale anche per questo pezzo. Questo pezzo qui in particolare, appunto, essendo un album che parla dei numeri, che deve in qualche maniera spiegare ai bambini che cosa sono i numeri, come sono fatti, o comunque raccontargli qualche aneddoto, qualche storia inventata che riguarda ciascun numero. Questo, parlando dell'otto, perché il pezzo si chiama Figure 8, spiega e niente, c'è un video dove racconta di questo numero 8, lo potete guardare su YouTube, ci sono tutti i video dei Might Be Giants, e c'è questo numero 8 che fa un sacco di cose belline, corre, salta, scia, fa un sacco di cose insieme ad altri numeri, ma lui è l'assoluto protagonista. Quindi sentiamoci dei Might Be Giants con Figure 8. Round, can you go around? And if you can, turn around without falling down. You can skate in a figure eight. If you can turn, if you can go straight. Turn left, go straight. Con The Number 8, cioè il pezzo in realtà era Figure 8, ma insomma tutto ruotava intorno al numero 8. Il prossimo pezzo invece parla del numero 4, perché è di Aphex Twin, e un pezzo tratto dall'album Richard D. James, anzi in realtà Richard D. James Album, che tra l'altro è il suo nome. Aphex Twin, il suo vero nome è Richard D. James, e quindi è, nonostante utilizzasse già lo pseudonimo Aphex Twin, ha fatto un album che si chiamava col suo nome proprio. È un album del 1996, e questo brano, che si chiama 4, appunto, 4, è stato utilizzato, pensate un po', in uno spot pubblicitario antidroga e per gli Special Olympics del governo statunitense, cioè roba di cui insomma andare parecchio fieri, però il pezzo obiettivamente è molto bello e quindi ve lo faccio sentire nonostante tutto ciò. se vi ricordate il video di questo pezzo, in questi ultimi frammenti dove la musica finisce, rimangono solo rumori di oggetti che si rompono, è così perché nel video appunto ci sono quei 10 secondi di distruzione totale dove due ragazzi devastano tutto quello che trovano in una specie di scarica dove c'è un giradischi e ci sono altre varie apparecchie e cose da spaccare a loro piacimento, producendo peraltro in qualche modo musica. E dopo Aphex Twin, un altro pezzo che a me piace veramente un sacco, che è dei Sonic Youth, ed è 100%, dall'album Verti del 1992. Lo conoscerete, è uno dei più famosi, è uno tra l'altro che a me piace veramente un sacco, sia il pezzo che tutto l'album, a cui sono più affezionata dei Sonic Youth, direi. Il pezzo è dedicato a un loro amico Joe Cole, che si è ucciso in una sparatoria l'anno prima. Il video riprende la vita in strada di alcuni skaters, tra cui fra l'altro Jason Lee. Get you. Chick is mine. All I know is you got no money. That's got nothing to do with the good times. Can you forgive the boy who shot you in the head? Or should you get a gun and go in? Gun to my head, goodbye, I am dead. Waste wood, rock is his time to cry. Hey! Non so se ve lo ricordavate, io sì, e mi piace veramente sempre risentirlo. Adesso cambiamo un po' genere, arriviamo agli Antiproduct, un gruppo, non so se lo conoscete, sono un gruppo crust anarchico americano che è esistito tra la metà degli anni 90 e l'inizio dei 2000, diciamo. La cantante, la portoricana Taina Esili, tra l'altro, quando si è unita al gruppo aveva 16 anni, giusto per darvi un'idea. E dovevano uscire per le Bullition, ma ahimè si sono sciolti prima e quindi niente, è andata così. Tra l'altro, io ho letto questa cosa cercando di documentarmi un po' su di loro, che avevano nell'organico anche un violoncello, che però, essendo un gruppo crust, io onestamente non riesco a sentirlo in nessuna maniera, ma mi fido di quello che c'è scritto, non lo so, magari sta in qualche altro album che io non ho, se qualcuno di voi ce lo sente, il violoncello, bravi, io non l'ho sentito. Il pezzo degli Antiproduct è Faceless Numbers, Ok, sì, effettivamente non è proprio espressamente riguardante i numeri, ma numeri un po' metaforici, perché parla di esseri umani trattati come numeri, va bene. Però in questo caso mi sono presa la briga di essere un po' larga nel significato. L'album è Big Business and the Government Are Both the Fucking Same, titolo lunghissimo, del 1997, uscito per la Tribal War Records. Eccoli qua, gli Antiproduct. C'erano i frammenti con 1700-08 dall'appeso, che erano 10 pollici del 1997. Qualità è quello che è, d'altra parte, come tutto il vecchio punk che si rispetti, era registrato su cassettina, quindi insomma, oppure appunto preso dal 10 pollici. In ogni caso, la qualità è questa, ma comunque ascoltabile, direi, per niente brutto. 1708 erano le mattonelle bianche contate, come a volte succede di fare quando uno si mette a contare le mattonelle e le piastrelle nel muro o per terra, a volte capita, ecco, e capitava evidentemente anche a loro. E dei frammenti parleremo più approfonditamente mercoledì prossimo, se tutto va bene, perché finalmente faremo probabilmente insieme a Gino ospite la puntata sulla torinesità. Quindi non vi anticipo niente, spero anche che tutto vada bene, che ve la potremo fare davvero e non dovremo rimandarla, ma sappiate che sentirete parlare sia dei frammenti che di tanti altri gruppi altrettanto importanti e interessanti di quella città lassù che sta in Piemonte. Ma proseguiamo e dal Piemonte, da Torino, scendiamo giù brutalmente verso Roma con l'Inferno. L'Inferno con Different Shades of Zero and One. L'album è Pompa Magna del 2009. L'Inferno erano, per chi non li conosce, un gruppazzo romano, secondo me alquanto pregiato, che si definiva Sci-Fi Grand Roll. In realtà il nome vero del gruppo è Inferno, Sci-Fi Grand Roll. Hanno infestato i palchi di tutta Italia dal 2002 al 2012 circa, e poi, ahimè, si sono dissolti, riemergendo ognuno poi in altri gruppi altrettanto interessanti. Mi vengono in mente tra questi Malclango, ma ce ne sono diversi altri, che però ora vi dico questi, un giorno vi dirò altri. Sono usciti per Donna Bovosa Records, Bar La Muerte, Escape From Today, Shove Records, Upsound Records. E questo però, appunto, è Different Shades of Zero and One. Back, I need all of my dolls. Finisce così, brutale, infatti mi ha assolutamente colto impreparata. E vabbè, comunque, finito questo pezzo dell'inferno, vi volevo dare un po' di informazioni sull'agenda della prossima settimana. Settimana che, come al solito, per me inizia dal mercoledì, quindi ci siamo saltati già un po' di cose che c'erano all'inizio di questa settimana. Ma non ci saltiamo il fine settimana e in particolare vi segnalo due cose al Next Emerson sabato 28 gennaio, Milonga del Tango segnato, ma cosa che dovreste annotare ancora di più sulle vostre agende, sempre sabato 28 gennaio alle ore 16, corteo dei rifugiati di Lotta per la Casa con partenza da Piazza San Marco, appunto alle ore 16 come dicevo. Il corteo nasce dopo la vicenda di cui tutti saprete, che ha visto la morte di Ali e dopo l'incendio dell'ex aviazione in particolare. Vi leggo velocemente l'appello che è stato lanciato per questo corteo, che dice così: l'incendio dell'ex aviazione e la morte di Ali hanno messo in luce le reali condizioni di vita dei migranti in Italia ed il fallimento di un intero modello di accoglienza, anche del tanto millantato modello toscano, un vero e proprio sistema con cui ingenti risorse pubbliche vengono dirottate nelle tasche delle solite cooperative senza dare alcun tipo di soluzione ai migranti. Durante questi giorni di proteste, gli ex abitanti di Azione hanno preteso risposte e soluzioni differenti da quelle indegne proposte, dalle istituzioni, dal comune alla città metropolitana, passando dal prefetto e la regione toscana. Più volte sono stati caricati sotto il palazzo della prefettura mentre chiedevano di partecipare al tavolo che avrebbe deciso delle loro vite. La sordità delle istituzioni ha portato il COSP di sabato, riunito a porte chiuse e blindato dalla polizia, a riproporre lo stesso ed identico modello di accoglienza, temporanea ed indegna, che ha prodotto la tragedia dell'ex aviazione. Soluzioni come quelle relative all'emergenza freddo, rifiutate in blocco dai rifugiati perché destinate a farli sprofondare nella medesima situazione attuale tra poche settimane, dopo essere stati utilizzati per l'ennesima volta come vero e proprio strumento di business per le cooperative che gestiscono queste strutture. La protesta dei rifugiati somali si è scagliata contro quello stesso modello di welfare privato che il PD propone come unica risposta sociale all'emergenza abitativa. È un intero sistema, infatti, che deve essere messo, che deve essere denunciato e contrastato affinché venga messo definitivamente in discussione. Quindi, martedì scorso, ieri, c'è stata un'assemblea pubblica alla nuova occupazione di Via Spaventa, occupata dai rifugiati somali dopo l'incendio dell'ex aviazione, e è stata lanciata questo corteo piuttosto importante a cui vi sollecitiamo ad andare tutti e tutte. Quindi vi ricordo, sabato 28 gennaio, ore 16, partenza da Piazza San Marco. Detto ciò, l'agenda è finita così, non c'era tantissime cose da dire e proseguiamo con la nostra scaletta, che a questo punto ci siamo anche arrabbiati un po' a parlare di sto corteo e dagli inferno che erano già sostenuti, proseguiamo su questo tono ma con un altro genere musicale perché arriviamo ai Colle del Fomento. Oddio, un altro genere musicale? Boh, dipende dai punti di vista. Colle del Fomento, il pezzo è 5-1, il primo album dei Colle, Odio Piano, del 1996, pubblicato dalla Mandibola Records e ristampato l'anno dopo dalla Virgin. Ristampato l'anno dopo dalla Virgin, ve lo ridico. Le basi sono di Ice One, i due MC sono il Danno e la Beffa. È un classico della Roma migliore, secondo me, puro hardcore. E vabbè, sentitevelo. 5-1, Colle del Fomento. Chiama la paura nella testa pesa, se nessuno muove un dito, se nessuno dice niente, mani in tasca con lo sguardo assente, intanto a canno resto fuori, vado per la mia, ognuno c'ha il suo spazio ma una scelta tua, ognuno con la gente sua, se il fine non giustifica, qualcosa nella testa mi fa uscire dalla scatola e poi via di corsa, resto sempre uguale ma con qualcosa in testa, la proporzione è sempre 5-1, ma non c'è gioco più, se si gioca 5-1. La proporzione è sempre 5-1, ma non mi basta più se si gioca 5-1. La proporzione è sempre 5-1, e non ci gioco più se si gioca 5-1. La proporzione è sempre 5-1, ma non mi passa più e non mi passa più. Cammino giorno dopo giorno nello spro, cerco di dare un senso a ciò che è intorno, come sponci riesco. Passo e qualcuno mi guarda incagnesco, so che ogni pretesto è giusto, per questo il mio senso di ragno salta a mille. So perché, perché l'avvoltoio vola sempre sopra di me, mi vorrebbe riga ma lui sa che riga non ci sto, perciò fa il gioco duro e sai che fa sul serio, perché so in che cosa credo, l'ho imparato presto. In questo mondo non c'è posto perché è fuori posto, si gioca 5-1 ma io non voglio giocare, con chiusa l'anfibio non solo per camminare, se scende la notte sale la paura con lo scazzo, sono notti senza stelle e non c'è mezzo per uscire da una situazione di quelle brutte, tipo guerrieri della notte, troppo buio, troppe luci rotte, per questo resto coi fratelli dalla parte di me stesso, né destra né sinistra per me non c'è posto, tengo duro anche se ho le spalle contro il muro, ma non mi passa più se si gioca 5-1. La proporzione è sempre 5-1, ma non ci gioco più, sì se gioca 5-1. Lo sai, la proporzione è sempre 5-1, ma non mi passa più, sì se gioca 5-1. La proporzione è sempre 5-1, non ci gioco più, sì se gioca 5-1. La proporzione è sempre 5-1, ma non mi passa più e non mi passa più. Quello che c'ho, quello che so, meccanismo in testa per svoltare questo gioco, mo qualcuno resta fermo e sta a guardare se certe cose cambiano, ma qualcun altro cambia certe svolte là in un attimo. Cammino nella strada mentre il sole non mi scalda più, con il cielo sulla testa mia sempre più blu, per questo il senso che puoi solo cancellare, ma nella testa mia neanche in cinque puoi entrare. Vivo la vita di ogni giorno, ogni giornata, non sono né un compagno né un camerato, ma un b-boy, volevano problemi, ora problemi avranno, ma quando sono in cinque sai se mette male per il danno. A canno, sto fuori ma mi ributtano dentro, nella fattoria fa sempre lo stesso giorno, io flippo di mio hardcore e resto l'elfo scuro, ma non me basta questo sì se gioca 5-1. La proporzione è sempre 5-1 e non ci gioco più sì se gioca 5-1. Lo sai, la proporzione è sempre 5-1, ma non me basta più sì se gioca 5-1. La proporzione è sempre 5-1 e non c'è gioco più sì se gioca 5-1. Lo sai, la proporzione è sempre 5-1, ma non me passa più e non me passa più e non me passa più. E visto che siamo nell'hip hop e ci resteremo anche per un altro pochino, vi dico anche l'altro appuntamento che avevo saltato, che c'è questa settimana a Firenze, che è venerdì 27. mente, sempre al Next Emerson, che c'è la seconda serata dedicata ai Breaker, la crew Breaker che esiste e si ritrova qua al Next Emerson da un po' di tempo. E fanno questa una volta al mese, fanno una serata dove mettono dischi a turno, ballano e niente, e si ritrovano. Quindi questa è la volta a gennaio, è la volta di venerdì 27, e quindi ve la potete beccare nella seconda edizione. La prima è stata, il primo mese è stato quello di dicembre, intorno a Natale, non mi ricordo più, era proprio il 25 o il 24, ho dei vuoti di memoria, e adesso invece ve la ribeccate a fine mese, sempre, ma il 27, questo venerdì. Quindi quando volete, dopo cena, se venite, passate dal Next Emerson, li trovate lì, che ballano e sentono la musichetta sui dischi che girano. Dopo di ciò, rimaniamo appunto, come vi dicevo, sempre sui toni dell'hip hop con Luix. Luix, il pezzo è, come potrete intuire dal tema della serata, è I numeri di Cabal. L'album è La realtà e lo scontro, del 1998, pubblicato da Costa Nostra e distribuito dalla major BMG. Il disco contiene anche dei campionamenti di Patti Pravo, attenzione, che poi si è lamentata dicendo che non gli andava di finire nel disco di un rapper violento. E, si tratta del secondo album, questo, che Luix affida alla distribuzione delle major, in particolare della BMG. Il primo era stato pubblicato da Cordata, che era una label nata dentro al Forte Prenestino, una label di autoproduzioni. Poi Luix si lamentò del lavoro, più che altro credo della distribuzione, e quindi decise di far distribuire il disco successivo a una major. Tra l'altro, pure gli Assalti Frontali, del resto, pubblicarono Banditi con la BMG, se vi ricordate. Nel giro rapper di quegli anni, e non solo di quegli anni, era abbastanza pacifico partire dal cosiddetto ghetto e firmare contratti con le major, cosa che io, venendo da un altro tipo di giro, non ho mai capito, francamente, e neanche sono convinta che gli abbia dato tutto questo aiuto, anzi. Ma sviscerare questo annoso argomento comporterebbe un bel po' di tempo che non abbiamo, e quindi abbandono subito la polemica. E basta. In ogni caso, Luix, all'uscita di questo disco, tratta con la BMG e ottiene di non promuoverlo, di non far uscire né singoli né video, e dopo comunque rompe con la major e piano piano si ritira, peraltro, dalle scene. Negli ultimi anni si è rivisto in qualche live che però io francamente vorrei dimenticare, mi perdoni il signor Luix, di cui voglio invece conservare il ricordo intatto a quegli anni. Oh, wow, wow, wow, wow, what you? Benvenuti nel mondo cabalistico, esplicando in venta. Né 112 né 113, l'uno rappresenta solo me, unico e ineguagliabile, non divisibile, solo addizionabile per il prodotto finale. Ma se conosci te stesso ti stoppi nel due, polare, simmetrico, dualistico, come l'uomo e la donna, perfetto come la Trinità. Ora acciaio e sangue, tridimensionale nello spazio 3, le prove per il premio 3, gli ostacoli e i desideri del genio 3, come fonte cavallo e re, quadrato come il 4, delle direzioni del mondo me ne vado 4-4, nelle stagioni e per i punti cardinali scappo, sulle 5 dita della mano e su questo pentagramma, ai 5 sensi se ne aggiungi un altro troverai chi sei, come giorni per creare il mondo, sei quello che fai, non dimenticarlo mai. Sangue dentro e sangue fuori, sopra le onde del destino vai. Chiudendo questo ciclo perfetto come il 7, dinamico, trasformista nel teatro della vita, fa il regista e mette con i colori dell'arcobaleno e con le 7 note di Don Dan. Ogni settimana su quest'opera faccio il Dan. mediatore del cerchio e del quadrato, della terra e del cielo, un po' fuori, un po' dentro il complotto. Se lo metti di traverso infinito come lotto, più una notte, l'inizio, la fine del gioco. 1999, come lo spazio, ultimo numero, solitudine, prudenza ignota. Lascia che l'uomo ancora faccia la sua esperienza di morte o di vita nuova. Su questa prova del 9, un'azione nuova che si rinnova. Povero zero, privo di valore nella matematica, ma rende splendore e denaro ai numeri che siedono alla sua sinistra. Il vuoto, il nulla, la paura del cerchio ciclico. Adesso senti a me e dici boh, ma tutto si ripete anche in questo show. Anche in questo show, anche in questo show, anche in questo show, anche in questo show. Caballa esplica, costa nostra indenna. E beh, quello che non vi avevo detto, che era questo pezzo era feature, cioè non vedeva una collaborazione con Cuba Cabal, il cuginetto, e si sentiva in effetti. Basta, dopo questa parentesi hip hop rap dei vecchi tempi che furono, restiamo sui vecchi tempi che furono, ma un po' meno vecchi, con però un altro, altre sfumature. Arriviamo ai Pecora con il pezzo 67.000. Allora, i Pecora, con gli unici due dischi pubblicati, Patria e Balere si chiamava il primo e Black Albume il secondo, li conosciamo davvero in pochi. Ed è un peccato, cioè almeno, non lo so, io credo che li conosciamo in pochi, invece se no smentitemi e scrivete apposta wombat@insiberia.net dicendo che voi avete tutti i dischi e ci sentite un monte. Ma è un peccato, insomma, che li conoscano in pochi, perché erano veramente belli, secondo me. Su tutto io ne adoro i testi, creati da quel maledetto genietto di Lorenzo Giuggioli, De Bava, un altro gruppo molto, molto bello, e delle edizioni di Xlessica. Mi mancano sia i Pecora che i Bava, e se mai mi ascolteranno li saluto, così chissà, magari un giorno torneranno a suonare per noi, non credo, ma vabbè, chissà, non si sa. Condivido quindi con voi questo piccolo pezzettino di quel che furono e vi faccio sentire 67.000, tratto da Black Albume del 2011 dei Pecora. Finché ci spezzeremo la schiena per le briciole di pane e di puttane di chi ha il potere, non avremo tempo per pensare, non potremo mai sapere quanto meglio si potrebbe stare in una qualunque fra tutte le altre maniere. E più che la società palesemente marcisce, e più che si accanisce a ribadire che in una qualunque fra tutte le altre maniere sarebbe comunque peggiore. Così l'automobilista ha ragione sul pedone, il sottoposto sta chi nel suo posto, davanti al di dietro del padrone, davanti al di dietro del padrone. E così in questo istante, solo in questa nazione, 67.000 persone si trovano in prigione. Eh sì, vi invito a sentirvi anche tutti gli altri pezzi, tutti gli altri due dischi che si trovano un po' ovunque, sia su YouTube che mi sembra abbiano anche Bandcamp. Sì, perché secondo me davvero sono proprio belli Pecora. Allora, mancano tre pezzi alla fine di questa puntata di Slick Chick. Il prossimo pezzo è un altro pezzo di Amichetti, è il Teatro delle Ombre. È una puntata dove in effetti ci sono un sacco di vecchi amici, non l'ho fatto apposta, soprattutto boh, non pensavo che parlando di numeri sarebbe successa questa cosa, ma è invece andata così. Il Teatro delle Ombre pare proprio che si siano sciolti, ma vabbè, sono un gruppo di Udine che operava fino a qualche anno fa. In realtà, appunto, si sono sciolti, ma due di loro continuano le loro gesta nei Minoranza di Uno, che forse avete sentito negli ultimi anni suonare un po' in giro per l'Italia, che tra l'altro stanno cercando band per una compilation in supporto a Jimmy Puglisi, condannato a 14, ribadiamo 14 anni per gli scontri del G8 del 2001 a Genova e attualmente detenuto a Rebibbia. Se vi interessano altre informazioni e volete contribuire magari a questa compilation, potete trovare tutte le informazioni che vi servono sul sito del Minoranza di Uno, che è minoranzadiuno.noblogs.org. E boh, per quello che mi riguarda è bello vedere che non tutto finisce, ma qualcuno continua e continua anche bene. Il pezzo che vi faccio sentire del Teatro delle Ombre è 146 dall'album Un attimo prima del silenzio, che è uno split fatto con gli spacciatori di musica stupefacente, altro gruppo un po' fratellino loro di quel periodo, di quelle zone geografiche d'Italia. Album del 2007 e bah, sentitevelo, 146, il Teatro delle Ombre. Teatro delle Ombre, appunto, erano dalle lande nascoste dei dintorni di Udine. E basta, ci mancano soltanto due pezzi. E il prossimo è di una signorina che ha delle sonorità completamente diverse da quelle che vi ho fatto sentire finora. Perché perché Joanna Newsom. Joanna Newsom è un'arpista, innanzitutto, e, ma non è solo quello. Diciamo che potrebbe essere utile raccontare alcuni aneddoti che riguardano la sua infanzia in particolare, perché ad esempio da piccola i genitori le vietavano di guardare la televisione e di ascoltare la radio, dicendogli perché non doveva venire a contatto con roba stupida e violenta. E in effetti tutto questo deve aver lasciato un segno sulla piccola Joanna Newsom, che fra l'altro all'età di 5 anni decise di iniziare a studiare arpa, e la cui voce, ora lo sentirete, ti porta in uno strano mondo bambinesco, un po' incantato e un po' però anche sinistro. E effettivamente, è proprio così. Forse è stata un po' protetta dalle cose stupide e violente, o forse no, forse per niente, e proprio per questo ha questa vocetta. Non lo so, decidetelo voi. Il pezzo comunque si chiama 81, 81, e l'album è Have One On Me del 2010. Non è uno dei miei album preferiti suoi, io vi consiglio, se non avete mai sentito Joanna Newsom e vi interessa approfondire e ascoltarvela meglio, vi consiglio i primi album, che invece sono ancora più esageratamente bambineschi e più belli secondo me. Ma comunque, tant'è, questo pezzo comunque schifo non fa, quindi beccatevi 81 sempre di Joanna Newsom. I found a little plot of land in the garden of Eden. It was dirt and dirt is all the same. I tilled it with my two hands and I called it my very own. There was no one to dispute my claim. Well, you'd be shocked at the state of things. I believe. magari dopo questa vocetta e questi suoni lievi pensavate di poter andare a dormire tranquilli, riposati, anche un po' felici? E invece no, perché l'ultimo pezzo che vi faccio sentire sono i New Order, bravi, i New Order, con 586, 586. Ma prima di lasciarvi ai New Order, perché insomma è l'ultimo pezzo e quindi ve lo lascio andare e me ne vado, scappo, vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre intorno alle 21, e vi ricordo che la programmazione del Wombat continua. Stasera dopo di me spazio al Bubinone, quindi musica tutto il tempo, ma domani le trasmissioni ricominciano alle 19.30, come tutti i giovedì, con l'Accademia della Brusca, e a seguire intorno alle 9, 8 Hertz, e poi via via prosegue tutto il nostro palinsesto della settimana, comprese appunto, come vi dicevo, a inizio trasmissione anche le inaspettate repliche. Quindi basta, vi saluto, vi lascio ai New Order, 586, l'album è Power, Corruption and Lies del 1983, e appunto a mercoledì prossimo. Dormite sonni non troppo agitati, e saluto a tutti e a tutte, ciao ciao.